La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:32 primi 44 secondi, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia in diretta qui dagli studi Radio 24 di Milano e vi ricorda di segnalare all'indirizzo la versione di Oscar @radio24.it temi di trasmissioni oppure di esprimere critiche, richieste, osservazioni, chiarimenti sulle puntate precedenti e vi ricordo anche il numero di telefono per intervenire oggi sull'argomento che vi introduco immediatamente. Il numero di telefono lo sapete, 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms. Oggi parliamo di case, di immobili, perché iniziamo a riflettere sulla volontà confermata in maniera adamantina dal Presidente del Consiglio, anche contro le osservazioni che venivano dell'Unione Europea, con la prossima legge di stabilità di abrogare IMU, TASI sulla prima casa per tutti e senza eccezioni, ha detto il Presidente del Consiglio. E quindi vi chiedo se avete in corso richieste di mutui, se vi siete convinti che il problema del credito è finito, se insomma, telefonateci per dire sì, è venuto il momento giusto di riconsiderare l'idea di riprendere a comprare casa. Perché ci occupiamo di questo? Perché oggi sono usciti i dati diramati dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che testimoniano un fenomeno importante di ripresa nei primi 8 mesi del 2015, quindi i dati sono fino a fine agosto, rispetto al 2014, esattamente del mercato dei mutui, perché l'ABI dice che in questi primi 8 mesi del 2015 rispetto al 2014 l'incremento è addirittura di un più 86,1% rispetto ai primi 8 mesi del 2014. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre nei primi 8 mesi del 2014 le erogazioni per mutui ai clienti delle banche in Italia erano state pari a 15,5 miliardi di euro, dal 1 di gennaio 2015 alla fine di agosto del 2015 l'ammontare delle erogazioni per mutui è salito a 28,9 miliardi di euro, quasi 29 miliardi, di cui un terzo, quasi un terzo, il 29% sono surroghe, ma invece il solo ammontare delle nuove erogazioni di mutui, quindi nuovi mutui accesi, nei primi 8 mesi già supera il totale di quelli che sono stati invece accesi nell'intero 2014, cioè si tratta di 25,2 miliardi di euro. Allora, da una parte richiamiamo qualche altro dato. Se noi andiamo a vedere cifre stabilizzate del 2014, fine 2014, il totale di compravendite nel nostro paese dove era sceso negli anni di crisi, beh, insomma, ce ne abbiamo anche lì da recuperare, perché noi eravamo arrivati a 900.000 compravendite nel precrisi nel 2007 e siamo scesi a una quota di poco superiore alle 400.000 unità annue. Quindi pensate quanto profonda è stata la crisi del mercato immobiliare. Poi sapete che gli andamenti col segno meno del valore dovuti all'aumento dell'imposizione fiscale è stato molto forte, sapete anche che questo ha avuto un effetto molto forte sulla propensione al consumo, e sapete che c'è un dibattito aperto su questo, se sia più giusto iniziare, pensando a come accelerare la crescita economica, dall'abrogazione IMU TASI prima casa, come il Presidente del Consiglio all'inizio di settembre ha dichiarato e tiene duro, rispetto invece a iniziare con un ulteriore abbattimento dell'imposizione fiscale sul lavoro e sull'impresa. Aggiungo a conclusione di questa introduzione, prima di presentarvi il primo dei due ospiti che abbiamo, che oggi era molto attesa l'audizione della Banca d'Italia sulla nota di aggiornamento del DEF presentato dal governo la settimana scorsa, ed era attesa sia sull'ottimismo delle previsioni di crescita, sia sul maggior deficit, sia proprio sul punto di cui parliamo oggi, cioè sulla scelta di cominciare nel 2016 una legge di stabilità abrogando i mutasi prima casa, rinviando a 2017-2018 gli interventi di abbattimento fiscale invece sulle imprese e sul reddito delle persone fisiche. La Banca d'Italia in realtà si è dimostrata molto favorevole nei confronti del governo. Diciamo che storicamente con altri governi avrebbe espresso giudizi molto più critici sull'aumento del deficit previsto dal governo. E forse sarebbe entrata anche nel merito della scelta della progressione degli abbattimenti fiscali cominciando dalla casa. Invece è stata una promozione praticamente, cioè l'unica cosa che Banca d'Italia dice a proposito della scelta di cominciare dall'abbattimento di i mutasi è quella di dire purtroppo è rinviata al 2017-2018 la parte economicamente che avrebbe maggiore impatto sulle imprese e sul lavoro. Però, sottolinea la Banca d'Italia, l'essenziale è che questa volta l'abbattimento dell'imposizione fiscale sugli immobili appaia agli italiani come permanente e senza scappatoie, cioè senza far rientrare dalla finestra quello che si dice di abbattere sui mutasi prima casa, aggravando l'imposizione su altro e sempre sulla casa. Questa è una frase che in realtà è una benedizione, è una promozione per quello che vuole fare il governo. E allora abbiamo deciso innanzitutto di avere due ospiti, uno dei quali in questa prima parte fino al traffico ci dice qual è il giudizio di Confedilizia su questa scelta del governo e che cosa stima rispetto alla ripresa del mercato che potrà venire dalla misura che il governo preannuncia e che difende contro l'Europa. Poi, dopo l'interruzione sul traffico, andiamo con un economista per entrare nel merito di questa querela tra i mutasi subito e diminuzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle imprese dopo, perché sapete che su questo c'è un confronto vero, profondo, perché la maggior parte degli economisti, anche di scuole diverse, profondamente diverse, in realtà dice vabbè, è una scelta più che altro elettorale, cui effetti sulla ripresa dei consumi, anche se è acclarato che l'aumento dell'imposizione sulle tasse ha avuto un abbattimento della pressione dei consumi e ha innalzato il risparmio invece dei consumi, però moltissimi economisti dicono no, è proprio sbagliato, è una scelta elettorale di Renzi e bisognerebbe cominciare dall'altra parte, per così dire. Allora, abbiamo con noi innanzitutto Corrado Sforza Fogliani, il presidente di Confedilizia, che ringrazio per essere qui con noi oggi pomeriggio. Presidente, buon pomeriggio. Buongiorno. Allora, posso chiederle qual è il suo giudizio innanzitutto dal dato sul boom dei mutui annunciato dalla Banca Italia? Cioè, torna anche a voi che davvero siamo in presenza di un aumento dell'86%? L'86% è un dato certamente vario, valido, vero, ma bisogna considerare il confronto e quindi non farsi su vecchie illusioni, come lei del resto ha già sottolineato mostrando i dati della COR. Che si sia in progressione in questo campo, sia pure soprattutto nel campo dei mutui prima casa, è un dato certamente da considerarsi. Noi pensiamo che questa tendenza sia dovuta proprio anche agli annunci del Presidente del Consiglio che cominciano a ricreare e maggiormente si consolideranno quando il discorso suo sarà la misura concreta confermato, che ha cominciato a ricreare fiducia proprio perché il Presidente del Consiglio ha capito che bisognava andare nel senso indicato dalla Banca d'Italia, cioè che dare fiducia ma in una misura che non sia temporanea ma permanente. E difatti il Presidente del Consiglio ha impostato questa sua decisione dicendo appunto che indiscriminatamente tutti gli immobili prima casa e tutti i possessori di immobili prima casa venivano esonerati dal pagamento di queste imposte. Questo è proprio il messaggio che ci voleva per consolidare quello che comunque è un dato sicuro sul quale vi sono degli studi, in particolare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e cioè che quando i prezzi delle case danno fiducia, inducono all'investimento, anche i consumi aumentano e viceversa. E questa è la grande ragione per cui noi, oltre che per ragioni di carattere associativo, sosteniamo che questa sia una misura favorevole che dovrebbe peraltro trovare un completamento per risollevare effettivamente o ricreare meglio l'investimento immobiliare, una misura dovrebbe essere anche quella di agevolare l'affitto, quantomeno dell'affitto calmierato dei contratti concordati. Senta, alcuni sostengono, io stesso ho fatto più di una puntata dalla vostra ripresa estiva sentendo Lanci una volta, sentendo Fassino poi un'altra volta, quindi il Presidente, poiché il governo ha annunciato e conferma che i 4 miliardi, poco meno di 4 miliardi di introiti per i comuni da IMU, TASI, prima casa verranno totalmente coperti, però Lanci dice sì, vedere per credere, perché il governo ci ha fregato parecchie volte, e una delle ipotesi sul tavolo in realtà è di consentire ai comuni, per recuperare almeno parte dell'abrogazione IMU, TASI, prima casa che resta nelle tasche dei comuni, alzando le aliquote sulla seconda casa. Poiché una componente fondamentale dell'abbattimento dei valori e del mercato immobiliare è venuta proprio dal fatto che la gente, di fronte a quello che pagava sulla seconda casa, ha iniziato a dire beh, qui vendiamo, e vendiamo a qualunque prezzo perché non ce la facciamo più. Se ci fosse questa misura compensativa di aumento delle aliquote da parte dei comuni sulla seconda casa, lasciando quindi poi ai comuni la scelta se farlo o meno, perché questa è una cosa che abbiamo visto purtroppo in questi anni da parte dei governi, il vostro giudizio quale sarebbe? Perché secondo me sarebbe un errore se noi a quel punto introducessimo questa, dalla finestra sulla seconda casa, l'aggravio delle aliquote. Voi che pensate? Ma questo certamente. Intanto però voglio sottolineare una cosa, che bisogna cominciare ad intendersi per che cosa si vuole riferirsi quando si parla di seconde case. Sì. Perché la terminologia abituale e più esatta, a mio modo di vedere, parla di seconde case intendendole come case di villeggiatura, in monti, in mare, eccetera, eccetera. Mentre molte volte i comuni nascondono dietro questa terminologia, anche nelle quadri dei quadri tariffari, le seconde case possedute per l'affitto e quindi affittate. E allora naturalmente il discorso varia completamente, perché punire ulteriormente l'affitto andrebbe sicuramente in senso diametralmente contrario a quella ispirazione alla fiducia e aspirazione alla fiducia che, di cui parla il Presidente del Consiglio giustamente. Nello stesso tempo invece il fatto di colpire le seconde case, quelle veramente di seconde case di villeggiatura eccetera, allora il discorso è diverso. Ma sarebbe diverso, certo. Devo dire che soprattutto perché non si può evidentemente assimilare una cosa all'altra, e soprattutto anche perché i comuni già sono in situazione che hanno alzato le aliquote del tutto a quelli delle seconde case vere, perché per il semplice motivo che non votano in omaggio al principio della rivoluzione americana. Allora, intanto abbiamo incamerato questi giudizi su questo dato degli aumenti dei mutui di Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, che saluto e ringrazio. Andiamo all'informazione stradale e poi torniamo a parlare di questo argomento, ma della querela. È giusto cominciare dalla casa invece che su impresa e lavoro. Abbiamo con noi Tommaso Monacelli, che insegna economia politica alla Bocconi. A tra poco. Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:47 primi 24 secondi. Siamo partiti dal boom dei mutui, più 86%, dice l'ABI, nei primi 8 mesi di quest'anno rispetto al 2014. Abbiamo ricordato però quanto resta da recuperare nel mercato immobiliare italiano. Abbiamo sentito l'opinione del presidente del Confedilizia, che ovviamente è molto d'accordo con la scelta di Renzi di cominciare dall'abbattimento dei mutasi prima casa e non dalle imposte sul lavoro e sulla impresa. Abbiamo ricordato che la Banca d'Italia stamattina in realtà ha sposato questa scelta, non era così scontato, la Banca d'Italia tifa per questo governo secondo me. Volevo anche aggiungere che stamattina c'è stato un Consiglio dei Ministri che ha preso due decisioni, una l'ha presa e una no, perché quella che ha preso è stata la proroga della voluntary disclosure, che era attesa per la settimana scorsa, ma chi parla stamattina ha preso una notizia che sul giornale non era uscita, vedremo se qualcuno lo scrive domani. In realtà la prima proposta di decreto per la proroga della voluntary disclosure è stata bocciata dal Quirinale, quindi hanno dovuto aspettare oggi perché il Quirinale aveva detto no. E seconda notizia, il Consiglio dei Ministri di oggi, oltre a far saltare la clausola che doveva partire dal 1 ottobre di aumento delle accise, era atteso un decreto urgentissimo di sanatoria, ne abbiamo già parlato, di buchi certificati nei bilanci regionali per 19,3 miliardi per aver utilizzato tra l'altro i trasferimenti dati dal governo per pagare i debiti commerciali dei fornitori delle regioni, per averli utilizzati invece in spese correnti, 19,3 miliardi. Il decreto non è stato approvato, non lo trovate nel Consiglio dei Ministri di oggi nel comunicato, e anche su questo chi qui è al microfono ha delle fonti che gli dicono che è il Quirinale che ha detto no, scusate, siccome si tratta di inventarsi una procedura contabile di riscrittura dei bilanci regionali ex post per un buco di queste proporzioni, vediamo un secondo cosa ne pensa prima la Corte dei Conti. Ecco, vedremo se i giornali domani ne parlano. Sapete che con questo Presidente della Repubblica gli interventi di moral suasion restano silenziosi, però siamo in presenza di interventi di controllo penetranti, come vedete, anche perché prescrivere le procedure contabili pubbliche con un buco delle regioni di queste proporzioni di fronte a risorse non utilizzate per pagare i debiti ma per fare altra spesa corrente, a me continua a sembrare uno scandalo, altro che sanatoria, uno scandalo grande come una casa, perché provateci voi a non pagare lo Stato e a riscrivere i vostri bilanci, invece lo Stato lo fa. Detto tutto questo, allora Tommaso Monacelli, grazie di essere con noi, buongiorno. Le chiedo immediatamente, lei in quale partito si ascrive? In quello che a me sembra maggioritario tra gli economisti, di dire che bisogna ricominciare a levare le tasse su imprese e lavoro, o in chi, come Banca Italia stamattina, dice no, vabbè, tutto sommato gli effetti sul consumo ci saranno anche iniziando a levare i mutasi sulla prima casa? No, decisamente nel primo partito, non perché sono un economista, ma perché dal punto di vista proprio della teoria ottima della finanza pubblica, diciamo, intervenire sulle tasse sulla casa ha pochi effetti, pone dei dubbi sul piano redistributivo, francamente il costo opportunità, come si dice, cioè quello che il costo di non fare altre cose, di non utilizzare queste risorse per altre cose, è particolarmente elevato, quindi lì vedo semplicemente un gol, diciamo, a porta vuota, ma dal punto di vista politico. Però è corretto dire che c'è una convergenza assoluta anche tra scuole diverse di pensiero economico? Sì. Basta guardare al resto del mondo, basta guardare a tutti i paesi, per quale motivo, o tutti gli altri paesi sono stupidi e non l'hanno capito prima, per quale motivo esista per tutto una redistribuzione più forte rispetto a quello che c'è in Italia delle tasse sul capitale, sui beni immobili, eccetera, rispetto al lavoro. Noi è questo che dobbiamo cercare di fare, e fare un passo nell'altra direzione, cioè di ricominciare a tassare meno i beni immobili, ha poco senso economico. È stato sorpreso del fatto che anche il ministro dell'economia Padoan, quindi un tecnico eccetera, dopo qualche interrogativo che c'era tra noi osservatori eccetera, abbia sposato con decisione anche lui la scelta del Presidente del Consiglio? Ricordiamo che quando il Presidente del Consiglio la annunciò il 4 settembre, il ministro dell'economia non era stato informato. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, perché era in corso, nelle stesse ore in cui parlava, nei stessi minuti in cui Renzi parlava e l'annunciava qua a Milano, era in corso intervista di un collega a Padoan, negli stessi minuti, e Padoan non lo sapeva. Ecco, lei si è sorpreso che Padoan sposasse questa scelta? Avrei dovuto sorprendermi, in un qualsiasi paese probabilmente ci saremmo sorpresi, viste quali sono le, diciamo, le posizioni relative tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, devo dire posizioni relative di forza, di capacità di incidere sul dibattito. Direi che la cosa non mi ha sorpreso, non l'ha sorpreso. Insomma. E la risposta di Renzi, che dice non sarà un eurocrate della Commissione, un tecnico della Commissione Europea a farci cambiare idea, è corretta? Interpreta la necessità di fare scelte fuori dall'obiettivo di medio periodo di rientro del deficit secondo lei, o anche lì è solo politica? Ecco, questa è una questione molto più delicata e importante, su come l'Europa debba giungere a una gestione coordinata della flessibilità, ok? Io non sono contro l'idea che si possa usare una percentuale di incremento del deficit per sostenere la ripresa, ma il punto centrale non è quanto deficit in più e in meno si fa, il punto è in quale contesto di credibilità e di condivisione della decisione a livello cooperativo e dell'Unione Europea questo viene fatto, perché in un quadro chiaro di regole in cui si firma un contratto con la Commissione Europea, esatto, per cui io ti dico io faccio il deficit al 3.4%, ma questo chiaramente è fatto in cambio di un impegno o di aver già dimostrato di aver fatto precise riforme che sono state stabilite ex ante, deviare dalle quali dalla promessa delle quali diventa costoso, ecco, questo è un quadro di regole ben diverso in cui la flessibilità può essere ottimamente esercitata. Io penso che la finestra di opportunità, per usare le parole che ha usato Banca Italia oggi, sia pur non dicendo nulla sull'aumento del deficit, dei fattori esogeni esterni favorevoli a migliorare il deficit italiano, cioè bassi tassi e così via, avrebbero dovuto indurre il governo a diminuire il deficit e non alzarlo. Questa è la mia opinione, però sapete che la lunga storia dei tagli di spesa è andata come è andata, saranno pochissimi, e quindi io mi trovo a essere in minoranza e quindi a condividere quello che pensa Tommaso Monacelli. Sentiamo come la pensa Ignazio da Venezia sulla questione di Mutasi. Come la pensi, Ignazio? La pensiamo come il problema è che io la trovo una cosa aberrante questa scelta del governo, in quanto ci vogliono far credere di togliere le tassi da la IMU, la TASI a noi, però dopodiché quando ci sarà il riordino del catasto e quando coloro che oggi si possono permettere di pagare un IMU anche di 2.000-4.000 euro avranno già catastate le loro case in classi superiori e noi dopo 30 anni di mutuo e quant'altro ci troveremo con un riordino che ci triplicherà come... Allora, Ignazio, tu poni un problema che significa, in termini di equivalenza ricardiana, come si dice in gergo tecnico, comunque quello che dice la Banca d'Italia, che i tagli siano permanenti sui mutasi, moltissimi italiani non ci crederanno, perché sanno che arriva poi la riforma del catasto e che pagheranno comunque di più. E questo dà ragione a Tommaso Monacelli anche sugli effetti così potentemente attesi sul rilancio dei consumi, dall'abbattimento delle tasse sugli immobili. Secondo me, però, la nostra è una posizione minoritaria rispetto a quella del governo. Continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.